Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti, regia del Bolognese Volante. Ci siamo, buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati sui 103.100 modulazione di frequenza, insieme a Franco Paoletti che vi sta parlando al di là del vetro, ovviamente il nostro immancabile Bolognese Volante. Ma immancabile, buon pomeriggio e buon'estate Paoletti, come ha visto sigla estiva. Sì, me l'aveva promesso e così è stato, abbiamo dato una rinfrescata anche ovviamente alla nostra sigla che poi è quella che denomina tutta l'estate, però il risultato non cambia invertendo gli addendi. Allora, diciamo subito che ringraziamo ovviamente chi ci ha preceduto. Riccardo Platone, un saluto a Riccardo. E come la tua puntata, anche la nostra è praticamente la puntata numero 22 di domenica 2 giugno 2024. Siamo qui per parlare ancora di musica indipendente e incominciamo immediatamente con un gradito ritorno della musica indie. Stiamo parlando di un gruppo che si chiama A Volte, ci presenta Guerra e Pace, tratta dal loro ultimo EP, e poi ne parliamo ancora. L'ultima parola che ti dirò sarà domani e lo farò. E la parentesi fra le tue mani sarà quell'attimo che non perderò. Ma dura solo un battito di ciglia, l'ultima bottiglia di buon vino. Dal tramonto all'alba come Quentin Tarantino berrò dalla tua pelle dannata. È una doccia gelata, ci risveglierà una domanda fra i denti. Ma come siamo finiti clienti in questo club? E gli anni passano lo stesso, come un fulmine che apre il cielo. Siamo a terra e feriti adesso, ma non è un colpo a bruciapelo. E gli anni passano lo stesso, pietra dopo pietra abbiamo fatto una piramide, ma ci sciogliamo adesso come ghiacciai in Antartide. L'ultima canzone che ti canterò sarà un pretesto per farti ridere, sarà spontanea con un nuovo testo. Come on baby, light my fire, try to set the night on fire. E il tuo sorriso sarà così virale come un gatto che canta su YouTube, e come i primi astronauti sulla luna saremo i soli a sentirci respirare. Senza tuta spaziale, zero gravità, saremo nudi sotto sopra e senza età, come le stelle che gli A Volte con la loro Guerra e Pace in questa puntata numero 22, Paoletti. È proprio così, parliamo e soprattutto del gruppo appunto degli A Volte, che sono in circolo, insomma in piazza come si suol dire, dal 1998, composta da Cristian Torelli, Davide Cortese e Mario Arisci. Tornano dopo tre album all'attivo e questo EP, tornano alla musica dopo aver appunto lavorato con tantissimi artisti come Max Gazzelli, After Hour, i Merlin Kunz e poi tanti altri. Sono ritrovati con questo EP, premiati anche al May Defense, che dire, Guerra e Pace, il loro nuovo singolo, in attesa appunto di un LP ancora più importante. Bene, detto ciò, abbiamo ascoltato la musica delle volte e a questo punto cambiamo pagina con Eleven Joe, e ci presenta Siamo Persi. La sveglia è suonata, la notte è già andata, è un'altra giornata, comincia a metà. Senza di te, senza di me, siamo pura follia. Torni, scappi e vai via, dai non ti fermare più. Se ci avviciniamo guai. Questa storia ci ha abbracciato e poi spaccato a metà. Siamo persi tra le strade della stessa città, ma non ci incontriamo mai. Questa notte ti cancello e poi dimenticherò tutto quello che avevamo, ma che adesso non ho. Me ne andrò nel silenzio che resta tra noi. Non voglio ragione, tanto meno il tuo amore. Se ti vengo a cercare sento l'ansia che sale. Mi faccio del male, poi guardo le ore. È tardi, ho da fare, da qui devo andare. Tu non mi cercare più. Ricorda cosa siamo noi. Siamo storia di un abbraccio che è scappato a metà. Siamo persi tra le strade della nostra città, ma non ci incontriamo mai. Questa notte ti cancello e poi dimenticherò tutto quello. Eleven Joe e la sua Siamo persi. Siamo un po' persi anche noi, poi ti siamo già a metà anno, sembra ieri che siamo partiti con i primi di gennaio. Con la nuova stagione, sì sì, effettivamente è così. Allora, Siamo persi è il nuovo singolo di Giovanni Esposito, ossia Eleven Joe, nato a Gravina in Puglia e poi appunto si è trasferito in quel di Milano. Ha già praticamente nel suo palmarès, come si suol dire, la finale al prestigioso Festival di San Vincent di qualche anno fa, e poi nel 2018 ha affrontato una nuova sfida partecipando al musical Fame Superstar prodotto da Paolo Meneguzzi. E questo è invece il suo nuovo singolo col quale si ripropone dopo aver fatto anche dei musical, pensate un po'. Allora, Eleven Joe ci ha presentato questo Siamo persi, noi voltiamo pagina e viene a trovarci un personaggio che conoscevamo già, perché l'abbiamo già suonato. Si chiama Renesto e ci presenta questa Sembra ieri. Avanti, giudicatemi con la presunzione di chi non ha avuto ostacoli. Tra le labbra comodi sorrisi finti che si confondono con i capelli tinti. Luoghi comuni scolpiti in testa, una nuova menzogna e il gioco è fatto. Certo non sono stato sempre un santo, non è una colpa, nemmeno un vanto. Notti lunghe come anni interi, a cacciare in gola demoni dentro i bicchieri. I vostri esempi sono quelli che stanno in TV e quando chiude la diretta non esistono più. Sembra ieri che di notte piovevano le stelle. Sembra ieri che giocavamo con le bolle di sapone. Sembra ieri che di notte piovevano le stelle. Sembra ieri che giocavamo a far volare un aquilone. Coraggio, condannatemi, portatemi al patibolo. Non si sa mai sia troppo tardi. Una condanna esemplare adeguata a chi ha divorato ogni soggiorno come fosse Nutella. Tanti forse, nessuna certezza. La paranoia di non essere all'altezza mai. Avere tra le mani una valanga di sogni. Trovarsi a gambe all'aria ricoperto di pugni. Che giocavamo con le bolle di sapone. Sembra adesso abbandonatemi, portatemi in esilio. Non ho più voglia di pensare. Ho steso la mia anima a asciugare al sole. Io sento solo il mare. E sembra ieri. Sembra ieri, Roberto Renesto, in arte Renesto. Nato a Ferrara, è pianista, fisarmonicista, autore, compositore, membro fin dal 1989 del gruppo degli Strike, una band che è affermatissima a livello nazionale nei primi 90, e piano piano insomma ha condiviso, pensate, questa band i palchi con Mano Negra, poi a tanti tanti altri, dai Babylon Fighters appunto, poi Vinicio Capossella, Mau Mau, gli African Unite e ancora tanti tanti altri protagonista della scena indie degli anni 2000, insomma, insieme a Giuliano Palma e Blue Beatles, poi Youth Mamò, gli Statuto, gli After Hour, insomma, in quegli anni in cui fiorivano tutti questi gruppi c'erano anche gli Strike e c'era anche Renato, che si propone in qualità di solista con Sembra Ieri, il brano che abbiamo ancora in sottofondo. A questo punto velocemente andiamo e voltiamo pagina con Box 48 e ci presenta questo Milite di strada. Milite di strada che vivi sul marciapiede, parli con un microfono di bottiglia, voce liquida e parole date al fumo. Milite di marciapiede che vive al bordo della strada, conosci i giorni che ti salutano e le persone che passano. Una vita da uomo agiato, un futuro non hai creato e questo è stato. Tuo figlio nato senza carezze, cresciuto nel buio delle incertezze, dormi sotto funghi di lampioni, passano tutti ma non ti scomponi. Oh, oh, oh. E mi racconti del tuo passato, una vita da uomo agiato, un futuro non hai creato e questo è stato. E mi racconti del tuo passato, una vita da uomo agiato, un futuro non hai creato. Beh, insomma, non male questi Box 48. Il loro Milite di strada, ricordo a coloro che si mettessero in ascolto sulle frequenze dei 103.10 in FM qui a Bologna, che sono appunto all'ascolto di Easy Pop su Radio Città Fujiko. Buona domenica e buon ascolto. Assolutamente sì, 333-180-94-94 per i vostri short message. E vediamo di parlare anche dei Box 48, nome ispirato al numero del garage dove il progetto è nato. Loro, se non sbaglio, sono una band di Grosseto, 5 gli elementi, e quindi hanno praticamente anche loro un po' di storia da... così di strada, hanno diverse così incisioni al loro attivo. Nel 2023 hanno partecipato arrivando fino alla finalista di Sanremo Rock Contest suonando appunto all'Ariston, e questo invece è il loro nuovo singolo per l'estate 2024. E che dire ancora, che andiamo alla prossima, dove praticamente ritorna una proposta di un personaggio che è passato alla storia per quanti coloro appunto che seguivano molto la musica italiana, un personaggio che ahimè non c'è più, ma attenzione, qui c'è stata una nuova operazione. Stiamo parlando di Alessandro Bono e questa operazione di rivisitazione del suo pezzo, uno dei suoi pezzi storici. Stiamo parlando di Alessandro Bono e di Gesù Cristo. Beh, qui siamo di fronte a una canzone mistica. Paoletti, direi che c'è poco da dire, se ci vuole parlare un attimo del personaggio. Ma sì, certo, è un peccato, diciamo che è un peccato tagliarla, però Sony Music, a 30 anni dalla scomparsa di questo cantautore, praticamente ha ristampato sia in versione digitale che in uno speciale cofanetto CD la canzone, anzi l'album, un cofanetto insomma per ricordare Alessandro Bono a 30 anni dalla scomparsa appunto di questo cantautore. La canzone stessa uscì nel 1998 e fu presentata, se non sbaglio, al Festival di Sanremo. C'è da dire che appunto c'è questo cofanetto omaggio e ricordo a 30 anni dalla scomparsa di quest'autore, viene ripescato il meglio dei suoi precedenti album, insomma una operazione non solo nostalgia, ma insomma è importante per la musica italiana aver fatto questo omaggio a questo cantautore, poi tra l'altro sfortunato. Devo dire che a presentare il tutto appunto c'è stato sia la mamma di Alessandro Bono, che ha fortemente voluto questa pubblicazione per ricordare il figlio a 30 anni appunto dalla scomparsa, sia la figlia Vittoria, che era praticamente piccolissima, che ha dichiarato di essere contenta di questo così, di questo ricordo di suo padre. In effetti lo ricordiamo, per quanto riguarda Bologna c'è stato questo duetto con appunto non ricordo adesso il nome, però insomma con un bolognese doc, quello che ha fatto un boa nella canoa, non si ricorda lei? Beh, va bene, mi verrà in testa dopo. Lo sa che sono una capra musicalmente, ma andiamo avanti, Paoletti. Va bene, a questo punto andiamo, vado a cercare, vediamo se riesco a trovare il nome. Dicevo, dopo Alessandro Bono noi voltiamo pagina e abbiamo la proposta di L'Iper Uranio e ci presenta Sono una persona orribile. Aperta saltellando come Majorette, posso andare in capo al mondo con la mia cyclette, come Salgari mi immagino le tigri dal salotto, stare a galla è una fatica, io sto meglio sotto e guardo il mondo da un balcone, vedo quello che si vede dalla televisione, che passione appassionarsi a quello che non ti interessa, serve tanta abnegazione ed una pancia molto spessa, e non mi sono mai piaciute le tue guerre stellari, i maghetti arruffati, i pesciolini ricercati, te lo dico sinceramente, privo d'ogni fisima, credo che i supereroi siano la rovina del cinema. Oh oh. Sono una persona orribile, una persona orribile. Quel che dico ti dà noia, mi rincresce. Se capitasse che non ci si veda buone feste. Io detesto il tuo processo di identificazione verso un luogo, un paese, un pianeta, una regione. Io che al massimo mi sento cittadino del mio corpo e oltretutto ho smarrito il mio permesso di soggiorno. Che stronzo. Sono una persona orribile, una persona orribile, la verità. Io sono una persona orribile, una persona. L'Iper Uranio, sono una persona orribile, Paoletti. C'è un po' di Friuli Venezia Giulia all'interno di questo brano, anzi colui che canta è Nicola Bertocchi, nato a Trieste, conosciuto come L'Iper Uranio, si avvicina alla musica dopo 20 anni, cominciando da subito a scrivere canzoni proprie, insomma dall'amicizia col suo produttore Nicola Ardessi inizia una serie di registrazioni e arriva alla, così diciamo, alla pubblicazione del suo disco d'esordio, e dopo praticamente alcune incisioni è arrivato anche questo nuovo singolo per lui per l'estate 2024. Ottimo Paoletti, adesso sul piatto numero 1 mettiamo il brano numero 7, l'ultimo di questa prima parte, Fabrizio Tavernelli, Metti il mulo, e continuiamo nell'esplorazione del nuovo lavoro di Fabrizio Tavernelli, Resa incondizionata. Ci ascoltiamo il brano Metti il mulo. Almeno un po' svitati, e la realtà Beh, direi che c'è poco da dire sulle parole di Fabrizio Tavernello. Tavernelli, perdono, metti il mulo dove vuole il padrone. Beh, sì, ma c'è tutta una storia dietro, speriamo che ce la possa raccontare lui prossimamente, quando sarà intervistato qui sulle frequenze dei 103 e 100, in modulazione di frequenza ovviamente, Radio Città Fujiko. Noi ci stiamo lavorando, la regia sta predisponendo. Allora, un saluto anche al nostro Tavernelli, che so ogni tanto così ascolta, ci ascolta e insomma... è sempre con l'apparecchio, è con l'orecchio e all'apparecchio. Scusate il gioco di parole. Allora, noi cosa facciamo, regia? Sì, c'è un piccolo break, vero? Reclam, Paoletti. Allora, reclam, noi rientriamo veramente fra pochissimo, quindi non andate via. Non andate via. We're listening to Radio City Fujiko, Easy Pop. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti, regia del Bolognese Volante. Eccoci rientrati qui per la seconda parte di Easy Pop insieme a Franco Paoletti, che vi augura il buon pomeriggio, e ovviamente il Bolognese Volante, che è dall'altra parte dello studio, insomma, che spinge cursori e quant'altro. Apparato tecnico, come dice lei, si è ripreso dopo la piccola pausa? Sì, sì, sì, no, mi sono ripreso e ho approfittato per prendere un cioccolatino, ne avevo solo uno, quindi lei niente. A questo punto invece siamo di fatto entrati in quella che è la seconda parte. Seconda parte inizia con il gruppo dei Bonsai. Bonsai ci presenterà il brano Casa di Specchi. Per quanto riguarda questo gruppo, è al suo attivo con un EP però cantato in italiano. Loro cantavano praticamente in inglese fino a poco tempo fa e si sono così lanciati anche nella lingua italiana. Devo dire, il tutto è riuscito molto bene. La giovane band, che è di Livorno, è prodotta, pensate un po', artisticamente da Daniele Catalucci, che è il membro del gruppo di culto dei Virginiana Miller. E detto ciò, diamo parola alla musica. Di cui non Eccoli qua i bonsai bonsai, la loro casa di specchi in questa seconda parte di questa puntata numero 22 di questa domenica 2 giugno, Paoletti. Esattamente così, quindi nel nostro pomeriggio musicale non poteva mancare appunto la musica e la musica indie. Parliamo ancora appunto di complessi musicali dopo i bonsai. Bonsai arriva un gruppo invece dell'Alto Vicentino, il complesso del Brodo, si chiama così, una band cantautoriale prog funky che ci presenta questo Saudadizio. La vita è finita, la morte vagisce. Figurarsi quei momenti che non si hanno mai passati. L'oasi albero, ricercare, ricercare in te, in te, in te, in te, in te, in te, in te. Tu vuoi tu tell hell alive. Questo sarà al pari di un bimbo. Tu wow, tu tell hell alive, privo delle ire che affinano lui. In armonia col mondo non abbisognerà il mutarlo. The most beautiful thing is that there is a there will be in this world this kind of person, a way better. Doesn't compare to us. Particolarissimo. Particolarissimo questo brano. Questo pezzo non vuole smettere di suonare. Adesso lo facciamo smettere forzosamente. Dicevo, particolarissimo questo pezzo del complesso del Brodo dei Saudadizio, vero Paoletti? Sì, allora, complesso del Brodo è praticamente il nome del gruppo, Saudadizio in realtà è il titolo del brano. Loro praticamente sono giunti al terzo singolo, anche se di fatto, diciamo, la loro carriera discografica e comunque i live sono già molto molto come possiamo dire, hanno già una vita in questo vivono già di vita propria, però sono giunti al nuovo lavoro e devo dire che il nuovo singolo per l'estate 2024 devo dire ci piace molto. A questo punto invece parliamo ancora di voci, questa volta femminili, con Marika, ci presenta questa pioggia di parole. So più dove potrei ripararmi, guardo solo una pioggia di parole, di parole. Rimane tutto il contrario, anche se il peggio è passato, non mi dimentichi più. Forse anche tutto il contrario, è una paura fondata, la mia fiducia giù, giù. Sono sia necessario mettermi io dal tuo lato, per ogni volta che sbagli so già vestito i panni degli altri. E brava, brava Marika, la sua pioggia di parole. Mi piace questo brano, molto easy pop, Paoletti. Sì, infatti ci sono delle strutture musicali molto interessanti, dalla urban al pop così melodico, a anche atmosfere che ci piacciono molto. E lei molto brava, devo dire che forse Angelina ha fatto scuola con questo parlato, questo insomma modo di cantare. Comunque ecco chi mi ricordava. Certo, Marika Fabian, si chiama così, Marika appunto, cantautrice italiana nata a Padova nel 2001, si avvicina alla musica all'età se non altro di 16 anni e poi comincia a scrivere soprattutto in inglese, ma poi c'è il cambio di rotta e debutta ufficialmente nel giugno del 2022 e da lì in poi diversi singoli al suo attivo. Questo è quello che ha scelto per l'estate 2024, pioggia di parole. A questo punto velocemente arriva un altro personaggio che abbiamo imparato a conoscere, ma comunque gode di una certa popolarità nel mondo indie. Stiamo parlando di Alessandro Spina, ci presenta il suo nuovo singolo, si intitola Credeva. Questo brano, Paoletti scossava la testa, forse non gli piace tanto. A me piace, è molto dance anche. Sì, è molto particolare, ormai lo conosciamo bene, Spina, che appunto ha licenziato diversi album e sono tutti curiosi, presi da piccoli spunti di vita quotidiana. Questa Credeva è praticamente la storia di un uomo finito preda di una donna apparentemente appunto con le buone intenzioni e desiderosa appunto di un lui, in realtà poi va a finire, insomma, quello tradisce. Questa è la storia di Alessandro Spina con Credeva, ma lui ha già degli album al suo attivo e già, diciamo, nel suo mondo indie ha già il suo gruppo di fan e questo è il suo nuovo singolo anche per lui per l'estate 2024. A questo punto voltiamo pagina e come andiamo, regia? Ci sono messaggi, no? Non particolarmente. Bene. A questo punto allora noi proseguiamo con Capo Lupo, ci presenta Gioie e Paranoie. Ti hanno mai detto che quel vuoto non si colma mai. Che trucco sta tutto nelle piccole cose, e chi se ne frega se per te son pallose. E ti hanno insegnato che il posto fisso non si molla mai, che devi soltanto prestare attenzione, altri vent'anni e poi c'è la pensione. Anche se forse una cosa posso fare, faccio un cocktail di piccole gioie, cercando un riparo alle mie paranoie. Assuefatto dal mondo e da tutta una vita che non so controllare. E poi ti sorprendi se mi svegli nervoso, con la vita che ti urla, devi essere uomo. Addestrato a dovere per tutta una lista di cose da fare. E cosa rimane di me? Cosa rimane di me? E ti hanno mai detto che la prima volta non si scorda mai, e ogni tanto galleggi coi ricordi nel cuore, e chi se ne importa se hai scordato il suo nome? Ma ti hanno insegnato che indietro non si torna mai. Sei sopra una giostra e chi scende è fottuto, e per non cadere devi stare seduto. Ma io una cosa posso fare, faccio un cocktail di piccole gioie, cercando un sollievo alle mie paranoie. Assuefatto dal mondo e da tutta una vita che non so controllare. E poi ti sorprendi se passeggi nervoso, però sfoggi un sorriso, perché adesso sei un uomo addestrato al dovere, a tutta una lista di cose da fare. E cosa rimane di me? Cosa rimane di me? Eccolo qua in sottofondo, Capolupo, Gioie e Paranoie. Tutti i brani abbastanza impegnati oggi, Paoletti, qua a Easy Pop. Eh beh, è un po' così, ci sono giornate più impegnative, altre meno. Comunque, voglio parlarvi di Capolupo, che è made in Bo, come si suol dire, un ragazzo che ruota poi qui a Bologna. Nel suo passato abbiamo scoperto che lo ha scoperto, diciamo così, la Sugar Music di Caterina Caselli, quindi ha avuto anche il suo momento di gloria insieme appunto ai Milagro e quella di Sanremo. Poi tutto ciò, insomma, si va avanti da soli. Anche la Caterina Caselli ha avuto il suo momento di gloria, è stata nominata Cavaliere del Lavoro dal nostro presidente. Ho saputo, però devo dire che come appunto encomio mi sembra più che giusto, perché ha scoperto veramente tanti talenti della musica italiana. Forse poi li ha abbandonati precocemente, poi però insomma ne ha scoperti tanti. Questo è un altro problema. Comunque, bando alle ciance, quindi vi raccontavo di appunto Milagro, che faceva parte, anzi uno dei due di Milagro, appunto questo Capolupo, che ha presentato il suo pezzo, questa volta da solista, Gioie e Paranoie. Voglio ricordare che Capolupo comunque scrive lui i suoi pezzi, quindi insomma andava detto. Poi insomma ha avuto il suo passato con un gruppo, insomma, per chi frequenta l'indie insomma si ricorda sicuramente degli Estranea. E a questo punto andiamo avanti con Alan ci presenta Hawaii. No, amore mio, sono contento di vederti anch'io, sono contento per tutti, ciao, che non sono un addio. A fine estate ti chiamerò per sapere se ti manco o no. La colpa è di tutte le stelle, il loro scintillio. Ho lasciato parecchie cose che non ti ho detto. Il nostro amore non ha un difetto, è una come dice giustamente Ala nelle sue Hawaii, non ci si annoia mai qui a Easy Pop, eh? Non ci si annoia alle Hawaii, ma neanche ascoltando Easy Pop, Oletti. Assolutamente no, anche perché si imparano tante cose. Alan in realtà non è una sola persona, ma sono praticamente un gruppo. Gli Alan sono Alex Malaguti, Andrea Chirico, Marco Mancini e Giuseppe Dalano. Sono tutti attivi nell'underground italiano da tanti e tanti anni. Il loro progetto nasce con cicli di sessioni creative online e poi hanno così deciso di iniziare a così incidere insieme, perché sono bravi ovviamente. A maggio 2021 è uscito il loro primo singolo Tempi Bui e da lì è tutto una discesa. Storia Perfetta è uscito nel 2023 e questo è l'assaggio del nuovo album che uscirà a breve. Quindi complimenti agli Alan, abbiamo ancora qualcosa, vero regia, da fare ascoltare i nostri ascoltatori? Sì, siamo in chiusura, adesso Paoletti si balla con Fabio Gomez featuring Good Guys, Don't Ask Me Why. I lie awake and smile, remembering your ecstasy. It's when made your body shine, you tasting like it's OTC. And since that night, you're on my mind. Gotta go down to get me high, gotta go down to make me fly. Turning around, don't ask me why, it's what I need. Gotta go down to get me high, gotta go down to make me fly. Turning around, don't ask me why, it's what I need from you, you, you, you, you. Gotta go down to get me high, gotta go down to make me fly. Turning around, don't ask me why, it's what I need from you. Come back and make you smile, and drink all your salty sea. Your ocean flooding mine, waves spreading all the name. Get me high, gotta go down to make me fly. Turning around, don't ask me why, it's what I need. Gotta go down to get me high, gotta go down to make me fly. Turning around, don't ask me why, it's what I need from you. Ma travolgente questo pezzo, Paoletti, eh? Assolutamente, lo voglio nella compilation estiva, perché insomma è trascinante. Allora Fabio Gomez lo conosciamo, qui un featuring con Good Guys, Don't Ask Me Why. Il cantautore italo-spagnolo originario di Berna, quindi in Svizzera, inizia la sua carriera musicale nel coro gospel di Lugano e poi piano piano frequenta gli ambienti musicali per arrivare, oltre che a Chicago, arriva poi in Italia e lì partecipa insomma a diversi concorsi, diverse scuole musicali. E quindi Fabio Gomez incontra Good Guys e gli dice: beh, sai che c'è, io ho bisogno di una voce e ti voglio in questo singolo, e da lì è nato il singolo. Ottimo Paoletti, manca una manciata di minuti alla fine di questa puntata numero 22 di oggi domenica 2 giugno, festa della Repubblica se non erro, un piccolo brano anni 80, poi ci salutiamo. We can dance if we want to, we can leave your friends behind, cause your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine. See, we can go where we want to, place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. Oh, we can go when we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hands to our feet and surprise them with a victory cry. say. We can act if we want to. If we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed. And I can act like an imbecile. Safety, The Safety Dance, pardon, Man Without S, un altro brano che non si sente poi così più tantissimo come invece se ne sentono tanti altri. Invece anche questo mi ricorda il Chuck degli anni 80, Paoletti, lì quando si ballava veramente in discoteche di quegli anni. Anch'io l'ho ballato moltissimo questo, The Man Without Hats, che insomma vivono di one shot, perché dopo questo non hanno mai ripetuto questo grandissimo successo. Bene, siamo giunti al termine anche per oggi, spero che vi siate divertiti anche per questo pomeriggio. Bye bye da Franco Paoletti, che si congeda e vi augura la buona domenica. Saluti anche dal Bolognese Volante, e vi lasciamo al resto della programmazione di Radio Città Fujiko, che prevede fra poco meno di una mezz'ora le corrispondenze di Dani Curaucci. Se volete riascoltare la puntata, quella di domenica scorsa, per un problema tecnico non abbiamo potuto mettere il podcast, questa speriamo di sì. Per riascoltarlo, www.radiocittafujiko.it, cartellina musica, e lì ci sono le playlist e i podcast di tutte le trasmissioni dei redattori di Radio Città Fujiko. Detto questo, buona settimana, buona domenica dal Bolognese Volante, bye bye. E bye bye anche da Franco Paoletti, ciao. Avete ascoltato Easy Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Got out of